Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 di Montecitorio. Ancora nuvole non solo in Italia ma anche sulla politica italiana. Ci sono 8-10 giorni per risolvere la crisi, almeno questo è quanto ha detto il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che spiega la sua idea sui saggi. I saggi, ricordiamo, si sono riuniti questa mattina al Quirinale e dice Napolitano non lavoreranno oltre la mia presenza, quindi 8-10 giorni, perché sappiamo che il mandato del Presidente della Repubblica è in scadenza. E in un comunicato il Quirinale evidenzia che sono il tempo giusto per il loro lavoro e si spiega anche che i gruppi di lavoro dei saggi non indicheranno alcun tipo di governo ma solo le questioni serie da affrontare. Insomma, il Capo dello Stato auspica attraverso i saggi lo sbocco della situazione politica irrigidita, lo sappiamo, da posizioni inconciliabili. Poco fa sta ancora parlando in una lunghissima conferenza stampa il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, che rilancia un governo di cambiamento. Ce lo chiede un paese che non ha più fiducia. E poi dice Bersani anche che sarebbe un disastro tornare alle urne. Non è pessimista nella possibilità di fare un governo, ma con Berlusconi ha già visto un impasse. È disposto però il segretario del PD a incontrare Berlusconi in sedi istituzionali e dice: il mio incarico non è assorbito dai saggi ma ci sono, è stato praticamente congelato, ma se sono un ostacolo alla formazione di governo io mi farò da parte. Poi dice ancora Bersani: non corro dietro ai grillini, gli 8 punti sono del Partito Democratico. Insomma, un appello alla corresponsabilità delle forze politiche. Allora sentiamo proprio il segretario del PD. Siamo il primo partito, la Camera e il Senato, abbiamo la responsabilità di avanzare una proposta utile al Paese. Questa proposta per noi deve contenere governabilità, cambiamento, dicevo, e corresponsabilità. Noi, a differenza di tanti commenti che ho sentito, noi partiamo da questa esigenza di una corresponsabilità delle forze politiche e parlamentari. Il problema è come realizzare una corresponsabilità. La si realizza chiudendo la politica in un fortino, la si realizza facendo un cosiddetto governissimo, noi PDL, forse Scelta Civica. Sarebbe, a nostro avviso, questa una risposta sbagliata davanti alle esigenze del Paese, perché finirebbe per raffigurare una politica che si chiude nel fortino. Ecco, ricordiamo invece che i saggi sono riuniti in due gruppi, il primo composto da 6 persone dovrà occuparsi delle tematiche economico e sociali e il secondo invece sulle tematiche istituzionali. Tra questi c'è anche Filippo Bubbico nel gruppo sulle tematiche economico sociali e Bubbico essere presa con Beppe Grillo, dice che deve mettere fine agli oltraggi. Non piacciono le accuse di essere i badanti della democrazia. Invece il PDL chiede una soluzione politica, Roberto Marona della Lega dice no ai bizantinismi politici, Vito Crimi del Movimento 5 Stelle dice che forse era meglio un governo Bersani senza fiducia che proseguire con l'esecutivo Monti, un'affermazione però subito smentita dallo stesso Grillo: Bersani non è meglio di Monti, quindi c'è anche un po' di confusione nel Movimento 5 Stelle. E tra i provvedimenti economici Bubbico annuncia che domani il Comitato affronterà anche i temi di ordine fiscale. Per Gaetano Quagliariello, che invece fa parte del gruppo sulle tematiche istituzionali, bisogna realizzare la riforma dei regolamenti di Camera e Senato, gli interventi sui costi della politica, la riduzione del numero dei parlamentari, la riforma della legge sul finanziamento pubblico e sullo status dei partiti e infine la riforma della legge elettorale. Ci sono poi state delle polemiche in questi giorni anche contro il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che si è sentito lasciato solo dai partiti nel momento per peggiore del suo settennato, con sospetti assurdi su di lui, e diciamo che è stata contestata anche la scelta che non ci siano donne nei gruppi dei saggi, una scelta che noi non condividiamo, con tutto il rispetto di Giorgio Napolitano. E allora oggi La Politica nel Tunnel ha cercato l'opinione sulla situazione politica solo chiedendo delle domande a deputate donne, un modo di contestare in modo bonario. Iniziamo sulla situazione politica con quanto ci ha detto Nunzia Di Girolamo del PDL anche riguardo ai saggi. Ma questi sono i saggi o ritenuti tali dal presidente Napolitano? C'è tutto il rispetto nei confronti della scelta del presidente, ma il giudizio di saggio glielo attribuisce Napolitano. Noi riteniamo invece che la politica si faccia in Parlamento, all'interno dei partiti, ed è qui che dobbiamo decidere se fare un'alleanza, così come abbiamo chiesto per un governo di unità nazionale, di concordio, come si voglia chiamare, o se si deve tornare alle urne. I saggi avranno una durata talmente breve che nessuno si accorgerà della loro esistenza, perché se dipendono da Napolitano, Napolitano purtroppo è in scadenza, e credo che un qualsiasi altro Presidente della Repubblica non vorrà ereditare, oltre a tutti i pasticci che ci sono, anche i saggi. Nessuna donna tra i saggi, lei non si sente saggia oggi in Italia? Ma io sicuramente non sono una saggia, però al di là di questo, come ho detto anche qualche altro giorno fa, le donne non servono, non contano niente in questo paese, e la composizione di queste due commissioni, senza tenere presente una figura femminile all'esterno o all'interno delle istituzioni, dimostra che siamo un paese maschilista, perché le donne servono, come ha scritto una giornalista, adesso non ricordo, su un blog, solo come foglie di fico quando bisogna dare un incarico. Si parla di giovani, di donne, ci si riempie la bocca, ma poi quando si tratta di posti di comando, di scelte che devono essere determinanti, non vengono mai affidate alle donne. Ma voi volete andare ad elezioni anticipate? Perché il PDL sembra in rimonta. Ma il PDL vorrebbe un governo che risponda ai problemi del paese, ma visto che il Partito Democratico è sordo, invochiamo le urne, perché ci sembra la cosa più democratica, ma loro hanno un concetto di democrazia molto relativo. Urne che abbiamo sentito Pierluigi Bersani, il segretario del PD, indica come invece un disastro. In aula alla Camera e al Senato intanto si discute la conversione del decreto sullo sblocco del finanziamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, un esborso di 40 miliardi per il biennio 2013-2014. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una relazione di minoranza. Allora abbiamo sentito a questo proposito Carla Ruocco e le abbiamo chiesto anche un parere sull'assenza delle donne nei saggi. Sentiamo. E che anche questo potrebbe essere un elemento di novità, lo spazio alle donne che appunto nel 5 Stelle è stato dato con una massiccia presenza in Parlamento, e chissà che apra la strada un domani a creare un comitato dei saggi appunto con una presenza femminile sicuramente forte, insomma. Ci sono un po' di perplessità anche nel Movimento 5 Stelle rispetto a questi saggi che magari molto spesso vengono dal mondo istituzionale e dal mondo della politica, come se ne uscirà? Dovessi pensare a qualcosa di positivo per il nostro paese, penserei finalmente ad una visione strategica e prospettica del futuro, che non vada semplicemente per pezzi e per toppe, perché poi alla fine non portano a nulla, portano allo sfascio che abbiamo visto già essere presente in altri paesi del sud europeo in particolare. Entrando nello specifico, voi avete fatto una risoluzione di minoranza, che cosa chiedete? In particolare adesso si discute dei 40 miliardi alle imprese oggi, e abbiamo chiesto che intanto vengano immediatamente liquidati per quella parte di imprese che sono sane, quindi vengano, comunque venga sempre tenuto presente un criterio di equità, di occupazionale, requisiti di onestà anche con cui viene, e soprattutto anche predilezione rispetto a quei crediti che adesso sono in mano già alle banche, senza, insomma, con tutto il rispetto, però ovviamente l'immissione diretta di liquidità nel sistema ci interessa maggiormente rispetto a quella indiretta mediante il sistema bancario. No, perché c'è un po' questa idea che il Movimento 5 Stelle sia un movimento naif, no? Che proclama la green economy, invece voi volete dei provvedimenti reali. No, i provvedimenti devono essere reali, e la green economy è sicuramente lo sviluppo sostenibile, è quello che noi auspichiamo per un futuro dei nostri figli e delle future generazioni, però oggi ovviamente diciamo sì ad un decreto che sblocca 40 miliardi. Con le condizioni che vadano veramente a buon fine. Ecco, allora, per chiudere questo giro di deputate donne sentiamo Michela Marzana, neodeputata del Partito Democratico, filosofa, docente all'Università di Parigi. Sono molto arrabbiata, ma non solo perché non ci sono donne, per tutta questa situazione, è una situazione in cui io credo che non si riesca a capire assolutamente niente. E probabilmente se si fosse anche guardato all'esistenza di donne che tante volte hanno l'abitudine di chiamare le cose col loro nome più degli uomini, sarebbe stato meglio, non solo perché ci sono competenze femminili, ma anche perché ne abbiamo tutti un po' le scatole piene di questa situazione in cui si fa finta di credere che ci sia una soluzione, non si lavora per cercare una soluzione e ci si racconta che poi prima o poi qualcosa accadrà. Crimi, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, ha detto oggi allora era meglio un Bersani senza fiducia, ma insomma c'è anche confusione da quella parte. Vabbè, da quella parte c'è sempre stata tanta confusione, però toni molto affermativi pretendendo avere soluzioni. Ma quello che viene dal Partito 5 Stelle, io non so se lei è capace di capire qualcosa, io no, visto che dall'inizio c'è un no sistematico a tutto, proposte contraddittorie, si torna indietro dopo aver detto una cosa. Non so, anche qui non si capisce effettivamente. Ma dal PDL invece sembra che Silvio Berlusconi poi alla fine voglia andare ad elezione. Vabbè, lì anche lì certezze sistematiche, vogliono andare al voto, cioè vogliono continuare a distruggere, anche qui cosa c'è di nuovo sul fronte occidentale? Ma cosa c'è di nuovo nel fronte occidentale del PD, visto che poi Bersani rimane segretario? So che ci sono tante persone nuove, perché si è tanto parlato della novità dei 5 Stelle e forse si è meno parlato delle novità nel PD. Se vogliamo parlare di un po' di filosofia, effettivamente ci vorrebbe. C'è un'immagine che era stata utilizzata da Wittgenstein, parlando dell'umanità come di un acquario in cui si muovono i pesci rossi. Se noi prendiamo il Parlamento adesso, siamo tutti pesci rossi all'interno di un acquario. E la filosofia dovrebbe servire a uscire dall'acquario e cercare di osservare le cose non dall'interno, ma un po' dall'esterno. E allora siamo tutti pesci rossi, intanto bisogna capire che l'ufficio di presidenza della Camera però ha varato un po' di tagli per questi pesci rossi, per 8,5 miliardi ci sarà una sforbiciata del 30% alle indennità di carica, del 25% delle spese per il personale di segreteria dei deputati titolari di cariche e una riduzione del contributo ai gruppi, dimezzato anche il fondo rappresentanza generale e in arrivo riduzioni per le spese telefoniche, plauso poi del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, che dice però meno tagli più drastici sul fronte dell'indennità senza toccare il personale. E che cosa chiede il Movimento 5 Stelle? Di tagliare gli stipendi di tutti i deputati portando la busta paga 5.000 euro lordi al mese, quindi sarebbe un bel taglio, però poi bisogna vedere se i deputati riescono, i senatori, a sopravvivere calcolando che devono vivere 5 giorni a settimana fuori di casa. Allora, l'altra cosa, perché per esempio la filosofa Marzano ci diceva che facendo la deputata guadagna di meno che all'università, quindi non sa, insomma ci sono molte c'è molta confusione anche su questo. Ricordiamo però che i saggi sono al lavoro per 8-10 giorni e che il segretario PD Pierluigi Bersani auspica che non si torni al voto, sarebbe un'ipotesi disastrosa, ed è pronto a incontrare Silvio Berlusconi in sede istituzionale. Queste le novità, ma noi vi terremo aggiornati. Un saluto da Elisabetta Fiorito.